Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. È l'ennesima farsa francese. La Petrella è un'omicida condannata per una meravigliosa serie di reati. È incredibile come su internet ci siano pagine e pagine che riportano le dichiarazioni di sollievo dopo il niet all'estradizione e il silenzio totale su quelle delle sue vittime. Che vergogna. Gente del genere dovrebbe restare in carcere fino alla fine dei propri giorni. Eraldo. I francesi pensano sempre che il nostro ordinamento giuridico non sia abbastanza evoluto per i loro gusti sopraffini, probabilmente affinatisi negli anni 60, in Algeria. Lorenzo. In Germania c'è chi cerca di punire i responsabili ancora in vita dell'eccidio di Cefalonia, avvenuto nel settembre 1943. E non lo fanno perché sia importante mandare in prigione qualche vecchio di 85 anni. Nel caso francese siamo ancora più vicino agli avvenimenti. Se la signora Petrella sta male, forse nessuno in Italia la manderebbe in prigione. Ma è qui da noi che si deve presentare a chiedere indulgenza, non a chi sta all'Eliseo. Con stima, Lorenzo. La figlia della terrorista Petrella dice che la madre non mangia da 6 mesi. Lo sa che le persone che sua madre ha ucciso non mangiano con la propria famiglia da più di 30 anni? Fabrizio, da Roma. La signora Petrella è un'assassina. Qualcuno lo dica alla figlia. Se il coinvolgimento in più omicidi si paga con 8 anni di carcere, come dice la figlia, posso sperare anch'io di poter espiare i miei ipotetici futuri delitti vicino a Euro Disney? Comunque, pensiamo a Sofri, che non mi pare sia relegato ai piombi. Renzo. La figlia della Petrella è meglio che capisca che sua madre non ha pagato il debito con lo Stato italiano. Chi uccide deve pagare per le proprie colpe. Per di più, la Petrella è scappata, dunque non va né giustificata né capita. Certo che se una figlia si trova una madre del genere e non capisce quello che ha fatto la madre, forse è meglio che non stia in Italia. Gli anni di piombo sono e rimangono un episodio di terrorismo politico e come tale devono essere condannati, perché l'Italia non era sotto regime, né fascista, né di alcun altro tipo. Davide. L'intervento della figlia della brigatista Petrella è perlomeno vergognoso. Questi individui insistono a sostenere di aver combattuto una guerra contro lo Stato, ma in realtà hanno ucciso gente a tradimento, quindi vigliaccamente e non sul campo di battaglia. Di quale guerra parlano? Gli attuali terroristi islamici, visto che non possono combattere apertamente la loro battaglia, in quanto minoranze rispetto al mondo attuale, almeno pagano di persona facendosi saltare in aria. I nostri terroristi, invece, se la godono in Francia. Come mai in Francia, paese confinante e non lontano 1000 miglia, si ha un'idea del terrorismo italiano di quegli anni così lontana dalla realtà? Anche l'attrice Fanny Ardant recentemente ebbe a fare delle dichiarazioni di stima nei confronti dei nostri brigatisti, quasi che fossero degli eroi. Mi chiedo come sia possibile un cortocircuito del genere. Perché la Francia riconosce lo status di rifugiato politico a quelli che sono oggettivamente degli assassini? Oppure ci sono delle verità inconfessabili che a noi italiani non è concesso di sapere? Angelo. A Milano due tram si sono scontrati. Tutti, ma proprio tutti i telegiornali, hanno titolato «Probabile malfunzionamento di uno scambio». Questa, vi assicuro, è un'enorme bufala informativa. So bene come funzionano gli scambi tranviari della rete milanese e vi assicuro che non può essere che un errore umano, probabilmente dovuto a fretta o disattenzione. Ogni giorno migliaia di scambi vengono commutati sulla rete tranviaria. Ogni tanto qualcuno non commuta, specialmente in autunno, quando cadono le foglie dagli alberi e il tranviere in quel caso blocca il tram, visto che è tenuto a procedere a velocità ridotta. Si ferma e attiva lo scambio a mano con quello che tutti i tranvieri chiamano el ferret. Questo succede ormai da 70-80 anni, da quando cioè hanno elettrificato la rete tranviaria milanese. Ogni tranviere milanese ve lo può confermare. Questa volta non esistono errori degli apparati tecnici, bensì solo errori umani. Chi ha ascoltato la radio o la televisione avrà sempre il ricordo che gli scambi tranviari milanesi possono essere pericolosi e causare disastri. Assurdo. Una stupidata ripetuta per centinaia di volte rimane una stupidata. Andrea. Le banche i profitti li incassano con avidità e le perdite invece le vogliono allargare e condividere. In questo momento però non è il caso di fare i processi. La priorità è il salvataggio del sistema. Dopo arriveranno i processi e pagherà chi deve pagare. Ha ragione De Aglio dicendo che il debito pubblico salirà, però guardando il futuro con un pizzico di ottimismo, non è detto. La lezione svedese del 1992 ci insegna che se la congiuntura non crolla, una crisi bancaria dovuta a una bolla immobiliare, simile al caso dei giorni nostri, può portare, se gestita per il meglio, un profitto per lo Stato e non solo debito. Giacomo. Nessuno sa ancora quali saranno le conseguenze della crisi economica che stiamo vivendo. Sappiamo però da dove è partita e per quali motivi. Se la casa diventa un bene su cui investire, viene esposta anche ai rischi stessi dell'investimento e, non ultima, la speculazione sul valore. Per anni abbiamo assistito alla crescita esponenziale dei prezzi del mercato immobiliare, negli Stati Uniti come in Europa. Un titolo azionario e altri strumenti finanziari subiscono continuamente le stesse dinamiche di aumento e riduzione del prezzo, ma rispetto alle case c'è una differenza. Uno può scegliere se comprare o no un'azione, mentre non può scegliere se comprare o no un appartamento. Può temporeggiare, attendere qualche mese o anno, ma alla fine, se la scelta prevalente è formare una famiglia, l'acquisto di una casa è quasi d'obbligo. Negli Stati Uniti, parte dei mutui richiesti e concessi per l'acquisto di case sono diventati carta straccia e questo ha provocato il disastro che non vede ancora l'uscita dal tunnel. Io penso che negli Stati Uniti abbiano solo anticipato i tempi rispetto al resto d'Europa. Forse l'impatto nel vecchio continente non sarebbe stato di questa portata, ma comunque il problema c'è. Non è possibile che la speculazione su di un bene di prima necessità possa essere concessa e tollerata dai governi europei. Si diceva, è il mercato e lo Stato non ci può entrare. Ora, dopo la tutela delle banche, mi aspetto un atteggiamento drasticamente diverso. Sulla casa non ci dovrebbero essere speculazioni da parte di soggetti che scambiano questi costosi beni come fossero azioni. Non è possibile che a Roma, Milano e nelle principali città italiane e del mondo vi siano case sfitte e che non vi sia un regime fiscale che disincentivi l'acquisto di case finalizzate alla mera speculazione. Ricordiamo tutti i vari Ricucci, Coppola, eccetera. E poi, siamo sicuri che le case che ci sono siano proprio insufficienti? Sicuramente in certe zone lo sono, ma è così ovunque? Le mie proposte sono, primo, regime fiscale che agevoli l'acquisto della prima casa, ma contestualmente disincentivi la speculazione sui prezzi. Secondo, che non ci vengano più a dire che il prezzo lo fa il mercato e che questo non si può fare. Terzo, eliminazione della figura del notaio nelle trattative per l'acquisto di immobili. Il problema è trovare una forza politica di governo che porti avanti questa linea concreta. Massimo. Una grave conseguenza del mancato sonno da discoteca è, come tutti sanno, l'enorme frequenza degli incidenti automobilistici mortali che avvengono nelle prime ore del mattino, dopo aver passato la notte ballando, bevendo e altro, stordendosi con luci psichedeliche senza alcun riposo. Ma oltre a ciò, come si può pensare che dopo aver perso completamente la notte, un giovane possa il giorno dopo studiare o lavorare con profitto? Quanto tempo è necessario per avere un recupero totale? Per il jet lag sembra occorrano 2 o 3 giorni, per cui come fanno coloro che perdono 1 o 2 notti durante il weekend ad essere efficienti nei giorni seguenti? Se si pensa che poi qualcuno di questi soggetti possa guidare un autobus, un tram, un aereo o semplicemente un'auto o un motorino, vengono i brividi. Ritengo quindi assolutamente necessario e doveroso che il governo prenda seri provvedimenti affinché le discoteche restino aperte non oltre 1 di notte, così come bar e affini, in modo che tutti si facciano almeno qualche ora di sonno. Sono convinto che se ciò avvenisse, migliorerebbe lo stile di vita dei giovani, con immediati benefici alla loro salute e tranquillizzerebbe le loro famiglie, con grande beneficio per tutta la comunità. Fabio. A volte provo disagio nel constatare l'ignoranza diffusa in merito alla cultura civica. Lo sento soprattutto riguardo alla divisione dei poteri sanciti dalla nostra Costituzione e dalle costituzioni democratiche in genere. Mi mette ancor più disagio il fatto che nessuno replichi e corregga. Parliamo di giustizia. Si dà tutta la colpa ai giudici se qualcuno viene liberato dalla prigione, per esempio. Ma i giudici applicano le leggi. Per ogni interpretazione devono dare argomenti precisi, fondati sempre su leggi e sentenze. Se fosse passato l'emendamento denunciato da Report, la colpa della liberazione di Tanzi e altri imprenditori del genere sarebbe stata dei giudici? Allora vi chiedo, una volta c'erano lezioni per analfabeti di lingua italiana. Perché oggi non fate dei corsi semplici e attraenti per analfabeti civici? Mi piacerebbe avere delle lezioni nello stile di quelle che facevate qualche anno fa, sul significato dei termini italiani secondo l'Accademia della Crusca. Sono una pensionata povera, quasi settantenne, ma ancora appassionata di cittadinanza. Grazie infinite, Anna. Secondo me, il problema della violenza negli stadi risiede negli ultra, o più in generale, nei tifosi. Se uno va al cinema, non trova parti della sala occupate da gente che, in piedi, assiste al film e inneggia all'attore preferito con urla e schiamazzi. Né si trovano persone che, nel caso il film non sia di loro gradimento, sfogano la rabbia devastando treni o malmenando qualcuno che passa per strada. Ecco, penso che il lavoro da fare sia a livello culturale. Il calcio deve diventare uno spettacolo da vedere, come per l'appunto il cinema, o il circo, o una mostra d'arte. Daniele. Caro direttore, innanzitutto benvenuto fra noi. Poi le volevo chiedere, se il problema non è la crisi finanziaria, cioè le borse che crollano, finanza su carta, ma è la crisi economica, finanza fisica, cioè l'economia reale, perché anziché stare tutti qua a tremare, le borse non le aboliamo? Che utilità hanno? Rudy. Caro Rudy, certo, mi verrebbe voglia di dire ecco la soluzione, aboliamo le borse così non potranno più cadere. E poi, di questo passo, aboliamo le automobili, così non ci saranno più incidenti stradali. E magari aboliamo gli ospedali, così non ci saranno più le malattie. E no, caro Rudy, le borse hanno tanti difetti, ma sono e restano lo strumento più efficiente per mettere in contatto la finanza con l'economia, i soldi di chi risparmia con chi i soldi li sa far fruttare per creare fabbriche e nuove aziende. Certo, poi c'è la speculazione, c'è chi ne approfitta, c'è il furbo che si arricchisce a scapito del meno furbo che perde i suoi soldi. Difetti che vanno limitati e controllati. Ma per l'economia di mercato, e quindi per le borse, vale quello che diceva Churchill della democrazia. È il peggiore dei sistemi possibili, eccetto tutti gli altri. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.